Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona Pasqua Pasqualino, buona Pasqua Nicolino, buona Pasqua anche a Tonino, buona Pasqua pure a te. Buona Pasqua agli avvocati, buona Pasqua ai ragionieri, buona Pasqua anche agli uscieri. Chi è? L'esattore del fisco. Bene, bene, avete sentito, bene, inutile che io ridica buona Pasqua, l'abbiamo detto a tutto il mondo, quindi comunque ve lo do anche io il buona Pasqua. Buona Pasqua da Davide Paolini, eccoci a noi. Allora parleremo ovviamente di Pasqua. State andando tutti a pranzo e io vi voglio servire il dolce. Vi voglio servire un grande dessert, perché come sapete Pasqua è anche la festa di molti dolci ed è il centro di tutto, è l'uovo. L'uovo è il simbolo della Pasqua assieme alla colomba. Ma perché l'uovo a Pasqua? Innanzitutto diciamo che è un simbolo che unisce molti popoli, i popoli e riti pagani come anche le civiltà orientali, soprattutto presso i cinesi e i persiani, l'uovo era il simbolo di fertilità e del ritorno alla vita, e in quanto tale l'uovo era il dono che veniva scambiato appunto come in occasione delle feste primaverili. Ma l'uovo è anche protagonista della pasta della Pasqua ebraica, e l'uovo di Pasqua giunge fino ai nostri tempi al cristianesimo, e quindi è diciamo il simbolo della resurrezione. La colomba, come tutti sanno, è il simbolo della pace. Bene, questi due simboli sono stati presi anche dalla pasticceria italiana, che è molto variata, molto variegata sui dolci di Pasqua, perché sì, sono tutti a base di uovo e di colombe, però veramente ogni regione ne mostra una, e poi via via ne sentiremo tante: la pastiera, la cassata, la pigna dolce, la scarcella, la schiacciata, le pie, la cuzzupa, la casadina, la pinza triestina, il tortano di Pasqua, la zambella romagnola, la pasimata, la focaccia. Ecco, ma ora cominciamo, andiamo in Puglia e andiamo da un pasticcere famoso per il suo panettone, ma in questo caso noi lo chiamiamo e ci facciamo raccontare della scarcella pugliese. Buongiorno Emanuele Lenti. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti quanti. Allora, un augurio di buona Pasqua. Grazie, grazie. Ci spieghi Emanuele cos'è la scarcella? La scarcella, il termine scarcella deriva dal verbo scarcerare, cioè il riferimento al rito del battesimo che scarcera, che libera noi cristiani dal peccato originale. E quindi anche l'uovo è simbolo di vita, è la primavera, è la stagione della rinascita, la natura. E questa ritualità è molto antica, perché con il sopraggiungere del cristianesimo, come hai detto tu giustamente, è stata data una valenza religiosa della scarcella. Infatti l'uovo nella scarcella rappresenta il sepolcro che si chiude e da cui risorge Gesù, liberatore dell'uomo e del peccato. È diventato simbolo pasquale soprattutto in Puglia, perché diciamo che il dolce è un simbolo predominante, perché soprattutto anche perché è chiamato con diversi nomi, ogni provincia gli ha dato un suo nome. Per esempio da noi a Grottaglie la chiamiamo la palomma, che rappresenta significa il pane, un pane pasquale. Nel Tarantino, nel Barese, nel Foggiano scarcella, oppure nell'Eccese, nel Brindisino cuddura o putica. Scusa un momento, però mi sembra di capire che questa scarcella era salata, diciamo all'inizio, sì, poi piano piano è diventata dolce. Sì, allora le origini che a me risultano è che inizialmente era un impasto salato di farina di grano duro, quello che esisteva nelle case, olio extravergine d'oliva, pepe e lievito e sale. Era comunque, Davide, una ricetta casalinga, povera casalinga, tramandata da madre in figli. E ingredienti erano comunemente usati tranquillamente in casa, quindi facilmente da reperibile. E poi piano piano è diventata un dolce di pasticceria. Esatto, poi con l'arrivo del benessere, come quando è cominciato ad arrivare lo zucchero, specialmente nelle case benestanti, questa scarcella salata da salare è diventata anche dolce, si è trasformata anche in dolce. Bene, caro Emanuele, grazie per averci raccontato la scarcella. È vero, in tante altre parti d'Italia si chiama altrimenti, ma soprattutto in Puglia, ma soprattutto al sud. Ma rimaniamo al sud, perché io ho parlato di dolci, ma Pasqua è anche un, diciamo, un periodo di torte salate. Pensiamo alla torta pasqualina, prende il nome, quindi più Pasqua di così si muore, come si dice. Ma io voglio andare a Napoli, perché a Napoli ci sono, diciamo, c'è un dolce notoriamente molto, molto importante, come la pastiera, che è il mio preferito, ma c'è anche il casatiello, fantastico. Io qua, solo a nominarlo mi viene l'acquolina in bocca. Buongiorno Ciro Arenella, buongiorno. Buongiorno Davide. Buongiorno. Sì. Raccontaci il casatiello. Allora, niente, è un impasto che viene prodotto solitamente con una farina zero, con lievito madre, in questo caso lo produce mio padre. Sì. È diciamo una lievitazione naturale, dove poi vengono abbinati all'impasto un poco di ingredienti che sono sia salumi che formaggi. Diciamo, in questo periodo pasquale veniva fatto il casatiello con ciò che rimaneva in casa, no? Quello che poteva, ad esempio, rimanere il salame, il prosciutto, i cicoli, si metteva tutto insieme ai formaggi e si creava questo casatiello. Senti, ma il nome da che cosa deriva? Il nome del casatiello? Sì. Cosa significa in dialetto napoletano? Ha un significato oppure non significa assolutamente niente? Così è stato dato questo nome e se l'è portato dietro nel tempo? Ma diciamo è stato dato così dietro nel tempo come nome, il casatiello. Ho capito. Senti, diciamo, tu hai detto che viene fatto con molti avanzi che rimangono a casa praticamente, quindi è un prodotto moderno, perché è un prodotto di recupero in un certo senso. Sì, diciamo in un certo senso è un prodotto di recupero, anche che se si parla che è un prodotto che è nato già dal 1500 volendo, quindi è diventato forse più negli anni un prodotto di recupero, anche se noi ci abbiamo dato una rivisitazione, cioè mio padre Giovanni Arenella ha dato una rivisitazione al casatiello, proprio utilizzando i ingredienti di prima scelta, come per dire salumi di Mangalizza, uova di alta qualità. Quindi, ecco, senti, diciamo, ma soprattutto viene usata la sugna o lo strutto per poterlo produrre. Sì, perfetto. In questo caso la sugna che è utilizzata, che utilizziamo almeno noi, è una sugna di cinta senese che poi viene filtrata per renderla più delicata, perché il rischio di una sugna quando non è buona comunque di essere troppo unta, quindi a un certo punto può dar fastidio e coprire anche tutti i sapori. Senti, un'ultima cosa, con che cosa viene abbinato? Che cosa viene abbinato il casatiello? Ma il casatiello, diciamo, noi l'abbiniamo anche ai formaggi e lo stesso anche ai salumi, con tutto che voglio dire è farcito di questi prodotti, però lo utilizziamo anche come sostituto al pane, no? In poche parole. Per la nostra, diciamo, cultura in un certo senso. Quindi come giorno di Pasqua può essere messo sulla tavola, insomma, tranquillamente. Sì, tranquillamente, cioè ci sta anche il pane, però al 99% noi napoletani, invece di prendere la fetta di pane per abbinarlo a ciò che sta a tavola, utilizziamo il casatiello. E quale vino consigli di bere assieme al casatiello? Ma, diciamo, avendo un'unione di sapori sia morbidi che forti, diciamo un bel vino deciso sicuramente, ma anche stando alle nostre zone anche un bel Gragnano, perché no? Bene, grazie Ciro Arenella, titolare di Campagna Mia di Napoli, specialità casatiello, ma tanti altri prodotti ovviamente. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. ora andiamo in Romagna, andiamo nella mia terra, andiamo al Brassadel, sicuramente come si chiama in Romagna, si chiama Bracciatello, poi si chiama in tante altre maniere. Buongiorno a Katia Rossi della corte di Raffaello di Sarsina, splendido buongiorno paese. Eccoci qua Katia. Allora, buongiorno a voi tutti, buongiorno. Stai sfornando il Brassadel? Oh. Sto sfornando la pagnotta pasquale di Sarsina, esattamente, esattamente. Siamo in piena produzione, siamo in piena lavorazione e ci stiamo proprio cimentando in questa ritualizzazione, perché per noi il dolce pasquale, la pagnotta di Pasqua, è proprio un dolce che ha, oltre a essere il nostro dolce della Pasqua, è un dolce che ha un forte valore simbolico e nella sua lavorazione siamo molto ligi proprio a quelle che sono le regole che abbiamo ereditato dai nostri genitori e quindi dobbiamo sottostare a una serie di rituali. Ecco, com'è questa pagnotta? Allora, la pagnotta pasquale è un dolce che si esprime, diciamo così, in un trionfo di bellezza dorata, possiamo dire questo, di circa 2 kg e 300 grammi. Abbiamo di fronte quest'opera culinaria incredibilmente scenografica che viene fatta lievitare 3 volte, quasi a scandire i 3 giorni della passione. Il lievito madre viene benedetto 3 volte, prima di essere infornata viene spalmata di uovo perché deve risultare bella dorata. La doratura ci riporta proprio a quell'ordine del puro che ritualizza un dolce quasi sacro, perché è un dolce che fin dalle sue origini, ancora nelle campagne quando veniva realizzato, si seguivano delle regole ferree, vestite di abiti bianchi, dovevano queste donne, queste azzore, dovevano cimentarsi in questa opera che doveva venire bene ad ogni costo. Se qualche volta capitava che non fosse un successo, la colpa era sempre della vicina che aveva fatto Katia, il malocchio. Katia, rimani con noi perché ora andiamo anche in Sicilia, poi torneremo sicuramente da te. Andiamo da Nicola Fiasconaro, che è un noto produttore di panettoni e di colombe, ma noi non parleremo né di colombe né di panettoni, ma voglio parlare con Fiasconaro di altri dolci pasquali in Sicilia, perché è questo che voglio andare a scoprire, non quelli notissimi. Fiasconaro, buongiorno. Buona Pasqua per tutti gli amici della radio, al dottor Davide. Buongiorno. Senta Nicola, io so che lei ha anche una pasticceria a Castelbuono dove vengono prodotti dei dolci molto particolari che sono gli agnellini, se non erro. È così? A fornare in questi giorni ovviamente le colombe pasquale che la fanno da padrona, ma l'agnello pasquale, dalla cultura ebraica intorno al 1000 d.C., ancora oggi c'è la tradizione sia nel messinese Caltanissetta, ma soprattutto a Favara, dove appunto questo borgo dell'Agrigentino viene definito il paese dell'agnello, della pecorella pasquale. Ecco, come sono questi agnelli dolci quindi? Sì, assolutamente dolce, diciamo che il trionfo delle mandorle, siamo nell'Agrigentino, le mandorle, ma la caratteristica quella di Favara, quindi in uno stampo di gesso anticamente, oggi si fa con lo stampo del silicone alimentare ovviamente, e l'impasto è quello di pasta reale, della frutta masturana grosso modo, anche tra una provincia e l'altra la tecnica un po' cambia, comunque c'è il trionfo delle mandorle di Sicilia, quello di Favara prevede all'interno del croccante di pistacchio e quindi c'è una leccornia, un profumo meraviglioso. Anticamente si donava, dopo aver mangiato l'agnello, quello gastronomico, ai bambini si donava l'agnellino della Pasqua. Ecco, rimanga con noi perché voglio tornare in Romagna, voglio tornare da Katia per capire. Katia, quando si mangia questa pagnotta? Cioè dopo, quando si esce dalla messa di mezzogiorno, quindi ora, diciamo, tornando a casa? Sì, esatto, al rientro dalla funzione, dalla santa messa del giorno di Pasqua, la famiglia si riunisce e consuma e appunto condivide anzi questo bene con la pagnotta pasquale, con uovo sodo benedetto, fetta di salame e vino sangiovese. Senti Katia, ma esiste ancora veramente questo rito? Assolutamente sì, c'è questa ritualizzazione che ancora oggi viene proprio portata avanti, ma proprio a conferma della nostra identità culturale e delle nostre radici. Però abbiamo, diciamo così, l'evoluzione c'è stata anche in questo campo, quindi a volte, e quindi questa pagnotta pasquale viene anche oggi consumata sia con il dolce, con del buon vino, con della buona albana di Romagna, oppure addirittura fatta come pan brioche tostare e servita addirittura con del fegato, con del prosciutto, e quindi abbinate in soluzioni, diciamo così, diverse e varie. Ecco, avete sentito, cari gastronauti, che vi accingete al pranzo di Pasqua, come ancora la tradizione in certi borghi della Romagna. I romagnoli sono molto, ma molto tradizionali, si parla del sud, ma diciamo che i romagnoli vengono considerati un po' proprio al limite tra diciamo Italia centrale, quindi Italia del sud, e diciamo che la tradizione è veramente ancora imperante. Ma voglio chiedere a Nicola Fiasconaro, cosa succede il pranzo di Pasqua in Sicilia, Nicola? Beh, l'agnello ovviamente è il principe della tavola, poi in ogni borgo, in ogni provincia, compreso le isole, no? L'arcipelago delle Isole Eolie, piuttosto che Pantelleria, c'è una cultura gastronomica legata appunto al rito del cristianesimo, della resurrezione di Cristo. Ci sono tante specialità, un patrimonio millenario, dove la Sicilia ovviamente in questo caso, in questo campo dell'alimentazione soprattutto, voglio dire, c'ha una grande tradizione proprio interessante. Nel dolciario abbiamo nominato ovviamente l'agnello, ma ogni paesino, ogni città c'ha una grande tradizione diversificata. Ovviamente è la primavera, il trionfo del grano, quindi biscotti di varie forme, sempre legate al rito religioso, ed è una giornata di festa, la risurrezione di Cristo, quindi la gioia, finalmente si ritorna a mangiare, mangiare bene, perché qui nel Mediterraneo c'è una grande cultura dell'alimentazione, e noi con grande gioia nel terzo millennio portiamo avanti. Senta, la colomba è arrivata in Sicilia e da pochi anni, o c'è sempre stata la tradizione della colomba? Giocavo con Teriso Busnelli 30 anni fa, e avevo 20 anni circa, lui riesce a farmi innamorare di una pallina che poi è la pasta acida, il lievito madre. Quando iniziavo a farlo la colomba da ragazzo, mi prendevano per matto, ma con tutto il patrimonio delle cassate, no? della tradizione siciliana del dolce, che c'entra la colomba e il panettone? Invece io sono riuscito ad inserire nelle componenti degli ingredienti il nostro patrimonio agricolo, quindi in questo caso la colomba è il trionfo degli agrumi, gli aranci che noi candiamo dal fresco senza anidride solforosa, e quindi c'è il profumo della nostra terra, del nostro patrimonio agricolo, le nostre mandorle, i nostri pistacchi. Oggi li diversifichiamo con 15 gusti diversi, ma quella classica tradizionale, dove c'è anche il disciplinare della Confederazione degli Industriali, prevede proprio gli aranci di Sicilia. Voglio tornare a Catia, perché voglio capire, in Romagna a Catia solamente questo pane pasquale, o ci sono altre tradizioni dolci fatti, o di dolci salati fatti appunto in pasticceria o nei forni? Legati al periodo pasquale, anche in Romagna chiaramente la fada padrona, oltre alla pagnotta pasquale, la colomba pasquale, i bracciatelli, ogni vallata ha il suo dolce legato alla celebrazione della Pasqua. Però ci sono tanti altri dolci, dalla focaccia, la focaccia sempre dolce, che è un dolce che viene fatto lievitare, diciamo così, diverse volte. Poi c'è la ciambella classica romagnola. La ciambella, introdotto. Bella, sì, esatto. E poi ci sono tutta una linea di biscotterie che noi abbiamo legato ai nostri prodotti, al nostro Sangiovese, alla nostra Albana, abbiamo legato la biscotteria anche, diciamo così, alle nostre origini, quindi utilizzando quello che sono origini romane, quindi al farro, al camut. Bene, ho capito che insomma, diciamo che oggi sento venire fuori proprio queste radici di questi produttori. territori, radici regionali molto ma molto forti. Mi ha fatto piacere che hai nominato il Brassadel, perché io me lo ricordo molto bene il giorno di Pasqua con l'uovo, anche quello con l'uovo e la colomba, come dicevo, tornano sempre, perché pare che ci siano anche delle colombe pasquali siciliane molto particolari, che sono dolci a forma di colombo, galletti o semplicemente rombi, sui quali vengono incisi disegni e punzonature in alcune parti ancora della Sicilia. Ma noi ora continueremo. Grazie a Nicola Fiasconaro e grazie a Katia Rossi, grazie alla Romagna e alla Sicilia. Ora poi andremo in tante altre regioni. Lina alla regia, torneremo fra poco. Rimanete con noi e buona Pasqua a tutti. Stai ascoltando un programma offerto da Elica. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Buona Pasqua Pasqualino, buona Pasqua Nicolino, buona Pasqua anche a Tonino, buona Pasqua pure a te. Buona Pasqua agli avvocati, buona Pasqua ai ragionieri, buona Pasqua anche agli uscieri. Chi è? L'esattore del fisco. Ah! Beh, buona Pasqua pure a te. Ecco. Bene, insomma, buona Pasqua ancora a tutti, ma ora andiamo a Trieste, come vedete stiamo girando per l'Italia in questo itinerario pasquale, dove emergono grandi tradizioni, dove emergono anche grandi radici di persone che sono legatissime al proprio territorio e alla propria tradizione. Ebbene, andiamo dal titolare della Bomboniera di Trieste. Buongiorno al signor La Porta. Buongiorno La Porta. Buongiorno a voi. Senta La Porta, io quando ho saputo che a Trieste si fanno le titole sono rimasto, dico, ma cosa sono le titole? Ce lo vuole spiegare? Come no, certo. Allora, le titole viene fatte con la pasta delle pinze, con dell'uovo sodo colorato e poi vengono fatte delle trecce. Praticamente sarebbe il simbolo, come se fosse il chiodo quando Gesù Cristo viene messo in croce, no? Ah, quindi c'è proprio una simbologia sulle titole. Esatto, perché poi la pinza, diciamo, è lo stesso impasto, solo che viene fatto tipo una spugna e viene considerata come la spugna che asciuga il sangue di Gesù Cristo. Senta, c'è la pinza, poi c'è anche il Presnitz. Sì, il Presnitz, che sarebbe poi considerata, sempre per il simbolo pasquale, come la corona di chiodi, no? Quindi tutta una simbologia veramente importante, tratta dalla religione in questo caso, mi sembra di capire, proprio perfetto il chiodo e la, diciamo, la simbologia. La corona e la spugna. Quindi tutti e tre, incredibile. Senta, ma c'è qualcuno che compra titole pinze e Presnitz tutti e tre assieme? Sì, perché comunque è una tradizione, no? Perché poi magari la titola la usano dare anche tanto ai bambini come segno di Pasqua, no? E poi le altre cose ovviamente sono dei dolci tipici pasquali, vengono messi a tavola proprio il giorno di Pasqua. Ecco, rimanga con noi La Porta, perché ora viaggeremo, andremo vicino a lei, andremo in Veneto, andremo da Luca Fraccaro, titolare della pasticceria appunto Fraccaro di Castelfranco Veneto. Luca, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, la cosa che mi ha lasciato un po' così sorpreso è il nome di questo dolce, che al di là dei dolci, diciamo, noti come la colomba e il resto, dalle vostre parti si fa la fugassa. Ma cos'è la fugassa veneta? Sì, allora, la fugassa arriva dalla nostra tradizione veneta, del nostro territorio. Tra l'altro neanche tutto nel Veneto, ma in alcune province... Treviso è un po' l'epicentro, poi un po' Venezia, un po' Vicenza e un po' Padova. E nasce da questo pane, che tutti in casa si facevano il pane col lievito madre e avevano questi piccoli forni, e verso il periodo pasquale, praticamente per la voglia di avere qualcosa di dolce, si inventano di fare un pane arricchito. Ecco che nasce la focaccia, la fugassa appunto in Veneto, che noi le chiamiamo così, e nasce proprio da questo semplice pane che viene arricchito con quello che allora avevano, cioè quindi un po' di burro, un po' di miele per dare un po' di dolce e delle uova. E da allora c'è ancora questa tradizione, che è molto più sentita rispetto alla colomba pasquale qui da noi. Ecco, senta, nel tempo questa fugassa dentro ora, cioè i contenuti quali sono? Perché lei mi ha detto, che mi sembra di capire, che un tempo era un po' un dolce di recupero, come abbiamo visto ce ne sono altri in cui veniva messo quello che si trovava a casa, quello che restava. Ora invece dentro la fugassa ci sarà, non dico un disciplinare, ma un modo comune di poterla produrre? Sì, ecco, in realtà non c'è un disciplinare, diciamo che nasce un po' dalla tradizione in cui tutti più o meno, sia panifici che anche noi, hanno un po' la loro ricetta, chi un po' più ricca, chi meno ricca, ma sostanzialmente parte dalla farina e lievito madre, non utilizziamo lievito madre, poi ci mettiamo del burro, delle uova, del tuorlo e ovviamente dello zucchero, e poi noi ci mettiamo un po' di glassatura di amaretto e mandorle. Qualcuno magari invece no, non ci mette la glassatura, ci mette semplicemente un po' di zucchero. Queste un po' le varianti, ma sostanzialmente è fatto un po' a forma di panettone basso, delle volte un po' schiacciata, e questa è la forma tipica della fugassa. Rimanga con noi, perché ora torniamo a Napoli. Napoli, diciamo, è un po' il centro di importanti torte pasquali, dolci e salate. Abbiamo visto il Casatiello, ma ora andiamo da un altro gastronomo importante, da Gennaro Fusco. Buongiorno Gennaro. Buongiorno dottor Paolo. Allora, benvenuto da Napoli. Bene, grazie. Senta Gennaro, la pastiera, ci vuol raccontare? Ora io devo fare una premessa, io sono ghiotto di pastiera e lo posso confessare, anche se non sono napoletano, devo confessare, è il mio dolce preferito, ma molti lo sanno, l'ho già detto durante questa trasmissione. Ci vuole raccontare un po' cos'è la pastiera? La pastiera fa parte della tradizione napoletana come dolce pasquale, e diciamo che è un composto di diverse creme: una crema di ricotta, una crema di grano e una crema pasticcera. La crema alla base della quale c'è la pasta frolla, che fa da contenitore, insomma. Quindi, in pratica, per preparare noi un'ottima pastiera, almeno secondo la vecchia tradizione napoletana, dobbiamo prima cosa fare la pasta frolla. Poi una crema di ricotta preparata il giorno prima, che viene fatta con uguale parte di ricotta e di zucchero macinato e poi conservato in frigorifero. Quindi facciamo il giorno dopo, facciamo la crema di grano, che è data da una parte di grano e una parte di latte in uguale misura, messa a bollire per circa un'ora in modo da formare proprio una crema di grano. E poi una crema di pasticcera che è classica, insomma, formata da farina, zucchero, tuorlo. Senta, ma il fiore d'arancio quando si mette? Ecco, una volta fatte tutte queste creme e una volta stesa nel ruoto la pasta frolla, si mescolano tutte queste creme che ho detto prima, cioè la crema di ricotta, la crema di grano, la crema pasticcera. E una volta mischiato tutto, poi si aggiunge appunto il cedro e l'arancia a pezzetti canditi, e quindi il fiore d'arancia e la vanillina. E poi, anche per dare un profumo in più alla pastiera, noi aggiungiamo anche un liquore tipico, diciamo, delle nostre parti, la strega, che poi è un po' conosciuta anche in tutta Italia. Questo la strega è un suo, diciamo, una sua particolarità, non è nella ricetta tradizionale la strega. Però insomma molti la usano qui a Napoli la strega, perché dà un profumo in più alla pastiera, dà un aroma ancora più particolare. E poi una volta che quindi questa viene mischiato, questi aromi con le creme di cui sopra, viene versato nel ruoto e messo a cuocere in modo lento nel forno per circa 2 ore. E la cottura è fondamentale, perché va fatta appunto lentamente, in modo che l'impasto si cuoce e non si brucia, e poi appunto pian piano deve fare quella crosticina sopra, no? Deve fare sì, infatti ci vogliono circa 2 ore per cuocerla bene. e poi appunto a 100-150 gradi. Insomma. Bene, Gennaro, rimanga con noi, io ora torno a Trieste perché volevo sapere da Gaetano Laporta un particolare. Abbiamo parlato delle specialità, titole, pinze, presnitz. Volevo chiederle se c'è una torta salata oppure se c'è un piatto particolare a Trieste per festeggiare la Pasqua. Sì, qua di solito a Trieste facciamo, praticamente viene fatto con cavoli, poi fagioli, viene fatto tipo una minestra che abbiamo usato anche per Pasqua, però poi come anche come dolce diciamo si usa molto la putizza, che è una pasta lievitata con dentro un ripieno di noci, scorza d'arancio, uvetta, e poi viene fatta con una pasta lievitata, chiusa, lievitata, poi messo in forno. Senta la porta, io non ho mai capito la differenza tra putizza e cubana. Ma guardi, la cubana è un attimino un po' più solida, un po' più duretta, come perché poi viene servita a fianco al rum, no? viene inzuppato nel rum, invece la putizza è molto più morbida. Comunque come ingredienti all'incirca sono molto simili. Senta, hanno sempre il ripieno di noci. Lei ha detto rum e la Slivovitz no? Sì, anche volendo sì. Ho capito. Bene, grazie a Gaetano Laporta, torno in Veneto da Luca Fraccaro e chiedo anche a lui. Abbiamo parlato appunto di fugassa. C'è qualche altro dolce veneto importante del periodo pasquale, Luca? Bene, il nostro territorio diciamo che la più usata è sicuramente la fugassa nelle sue varie, come dicevo prima, un po' nelle sue varie interpretazione, certo. Sì, esatto, quindi quella magari un po' più ricca di burro, da quella un po' invece un po' più gnocca, un po' più dura, da quella più morbida a quella un po' più magra, diciamo, quindi fatta un po' con ingredienti tipo un po' di olio vegetale. Sostanzialmente questo è il dolce tipico che viene usato. Un po' anche la colomba, che è un classico. Senta Gennaro, oltre al casatiello c'è qualche altra torta particolare pasquale in quel di Napoli? No, fa il casatiello dolce, che in pratica è fatto con lievito madre e con una pasta diciamo tipo colomba, però è molto poco usata, insomma. Però esiste, quindi esiste anche, diciamo, un casatiello, una versione dolce del casatiello rustico. Ho capito. Quindi però è un po' come una colomba, ecco. Ho capito. Però è molto, molto poco usata. È una tradizione quella del casatiello dolce che praticamente si è persa, insomma. Bene, io ringrazio Luca Fraccaro, Gaetano Laporta di Trieste, Gennaro Fusco di Napoli. Come avete sentito, cari gastronauti, veramente anche la Pasqua è ricca. Tutti pensano al Natale, ma anche la Pasqua si dà da fare, insomma, a tavola. Ci si ingrassa e come, ma cercate di mangiare poco, un pochino di tutto. Lì nella regia torneremo fra poco. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo in marcia sulla tavola pasquale, cari gastronauti, ormai sederete a tavola e chissà quanti dolci. Arriverà la colomba, ma come avete sentito in molte regioni d'Italia ancora la tradizione è veramente molto molto molto molto forte, quindi ci sono dei dolci tradizionali locali che vengono prodotti e vengono ancora acquistati, come avete sentito, e c'è una lunghissima tradizione. Ma ora io voglio così dialogare con un noto personaggio di Modica, che è un grande esperto della dolceria siciliana, nonché titolare della dolceria Buonaiuto, appunto, di Modica. E a lui voglio chiedere, caro Franco Ruta, io ho cercato veramente per mari e per monti un pasticcere, un fornaio che mi parlasse della cuddura, però ho chiamato Messina, che sembra l'area vocata, mi sono sentito dire non ci interessa. Bene, siccome non interessa alle pasticcerie messinesi, io lo chiedo a te: cos'è la cuddura? La cuddura, che viene da collura, dal nome greco, era forma di bucellato. In certe zone viene chiamata cuccidato, cioè di forma rotonda, ed era di pasta dolce In genere erano decorate con mandorle intere oppure con le nocciole. Quando invece si parla di cuddura in Sicilia e particolarmente nella Sicilia orientale, si parla della palumedda con le uova, cioè della colombina con le uova, che viene fatta sempre di pasta dolce, ma inserendo o all'interno o all'esterno, in base alle varie forme, l'uovo sodo. Tradizionalmente questa nasce come scambio di auguri tra i fidanzati e per l'occasione veniva fatta a forma di cuore, con l'uovo sempre sodo al centro. Quando parlo di varie forme, si fanno anche a forma di cestino, a forma particolarmente proprio di uccello, di colombina, sempre con l'uovo sodo, ma la particolarità, la visibilità, l'abilità è di chi esegue il dolce, diciamo, perché i decori, sempre fatti, diciamo, pizzicando la pasta dolce, sono molto difficili, ma nello stesso tempo molto accattivanti. Per farvi un esempio, paragonabili a quelli dei biscotti che si fanno in Sardegna, che voi tutti conoscete. Beh, sì, rimani con noi perché ora faremo un altro giro d'Italia, poi torneremo ancora in Sicilia. Ora voglio andare a Roma. Roma perché, dice qualcuno, ma perché a Roma? La colomba pare sia milanese, perché pare sia stata inventata dal direttore creativo della Motta, quindi proprio per utilizzare gli strumenti, i macchinari che venivano lasciati abbandonati perché non si produceva in questo periodo il panettone. E allora vado a Roma perché Attilio Servi, che è titolare della pasticceria Servi, è un grande produttore di colomba. Buongiorno Attilio. Buongiorno Davide. Ecco, che volevo capire dal punto di vista della lavorazione, panettone e colomba sono le stesse o c'è qualche differenza a parte la forma? Sotto il profilo procedurale è assolutamente lo stesso, nel senso che si parte sempre dal lievito naturale, si passa sempre a 2/3 impasti che si susseguono in un giro di 48 ore più o meno, e quindi a livello procedurale siamo sulla stessa falsariga. Direi che ci sono alcuni artigiani che, avendo trovato delle ricettazioni soddisfacenti per quello che riguarda il panettone, perseguono la stessa via anche per la colomba, andando semplicemente a cambiare un pochino la parte aromatica di questi impasti. E c'è qualcun altro che invece non fa così, nel senso che rispetta le due ricettazioni, dando vita appunto a due prodotti laddove similari per alcuni aspetti, ma fondamentalmente diversi. E qui c'è la mano del pasticcere, insomma, che dà questa diversità, il pasticcere poi che interviene. Soprattutto quello che è la sensibilità verso il croma, verso il gusto, e quindi voler saltare alcuni toni, quelli primaverili, quelli che ci portano adesso, il fior d'arancio che spopola perché è andato in fiore, tutte queste profumazioni appunto della primavera, i toni quindi li definirei più freschi, un po' meno caldi rispetto a quelli della tradizione natalizia, laddove appunto il calore è quello necessario, dovuto anche al tempo, alla meteorologia che viviamo, insomma. Bene, rimani con noi perché dopo la scarcella, dopo la cuddura, voi le conoscevate, cari gastronauti, questi temi, questi nomi? Conoscete cos'è la pie e la cuzzupa? Ebbene, ora vi spiegherò sono le pie e la cuzzupa, andando a Vibo Valentia. Buongiorno a Salvatore Russo. Buongiorno. Titolare della pasticceria d'arte, appunto. Senta, Salvatore, ci spiega, perché veramente anch'io, se non scoprivo in questi giorni questi due nomi, non avrei potuto oggi parlarne. E ho trovato così questi due nomi a me ignoti, e allora sono andato alla ricerca e ho scoperto che era un dolce tipico della Calabria. Lei ce lo vuole spiegare? Me lo vuole spiegare anche a me, però, soprattutto. Allora, sono due dolci, in pratica. Uno è simile a quello che ha spiegato prima Buonaiuto della Sicilia, in pratica la cuzzupa, che dalle nostre parti si chiama anche curullovu, che sarebbe in pratica un dolce, una pasta dolce, rotonda, che va a simboleggiare la corona di spine di Gesù, con un uovo e mezzo che va a simboleggiare la resurrezione dalla morte e anche in riti pagani, diciamo, la prosperità. Mentre le pittapie sono i dolci molto, molto, molto antichi del Vibonese, che si tramandano da generazioni nelle famiglie contadine e naturalmente anche da generazioni di pasticceri vibonesi. Sono dei dolci molto semplici, ma molto genuini anche per gli ingredienti. Infatti hanno uva passa, cioccolato, mandorle, insomma sono molto noti dalle nostre parti e diciamo anche molto, molto consumati. Rimanga con noi Attilio Servi, ma io ho parlato appunto di Colomba, che è milanese nell'origine, ovviamente, cioè se no, che sai, pasticceri milanesi o la milanesità insorge. Ma voglio chiederti, ma a Roma c'è un qualcosa di tradizionale di Pasqua, un dolce pasquale, una torta anche salata? C'è qualcosa di così di inedito da altre parti? Ahimè, non posso darti piacere a riguardo, nel senso che la tradizione romana prende spunto totalmente da quello che è la versione nazionale. C'è una tradizione fortissima relativa a quello che è la colazione pasquale, sicuramente tipica italiana, ma nella parte razziale è particolarmente sentita. Le varie province influenzano un po'. Mi spiego, la parte del Viterbese e la parte del Rietino utilizzano queste pizze sbattute, dolciastre, provengono da una tradizione che è riconducibile all'Abruzzo, la parte dell'Aquilano e la parte del Teramano, e quindi che fanno da contraltare al salame, al formaggio di non troppo stagionato, a della ricotta. La parte che invece guarda verso Latina, quindi scendendo giù, la parte che guarda un po' più a sud, è un po' più ricca di tradizioni sui generis dei napoletani, quindi non si utilizzano casatiello o pizze farcite, ma si utilizzano una specie di torte salate su base pasta matta, come si suol dire, farcite con erbe aromatiche e dei formaggi, insomma. Diciamo che sono tutte colazioni fatte da più cose: cioccolato, un pezzo di pastiera che viene dal napoletano, delle pizze sbattute. È un mix, insomma, è un mix di immigrazione. Assolutamente. Immigrazione italiana. Franco Ruta, in Sicilia, bene, abbiamo già sentite tante di dolci in Sicilia, ma nella zona di Modica, Noto, la zona Ibla, c'è qualcosa di particolare, di originale, oppure c'è la tradizione siciliana proprio? No, c'è qualcosa di tradizionale. Intanto, dagli interventi che ho ascoltato, la simbologia della colomba nazionale deriva da quello che ci eravamo detti prima sulla cultura come origine greca. E particolarmente c'è un dolce che viene fatto a Pasqua, o meglio un biscotto per definirlo meglio, e si chiama quaresimale, ed è di mandorla tostata e frutta secca. Quaresimale che io ho trovato anche a Malta con lo stesso nome, quaresimal. E per fare così, per sintetizzare, volevo dirvi e ricordare a qualcuno che già conosce che c'è una ricerca dell'etnografo Antonino Uccello con la sua pubblicazione Pani e dolci di Sicilia, dove veramente non basterebbero 10 trasmissioni per elencare tutto. Grazie a Franco Ruta. Beh, io devo ricordare cosa è successo, un fatto di cronaca, perché è troppo divertente per ricordare la colomba, che due giorni fa è stato fermato una macchina e è stato aperto il cofano dalla polizia stradale, c'era un panettone e insospettiti che fosse fuori stagione hanno trovato 250.000 euro inseriti dentro il panettone. E allora la battuta divertente da parte mia è questa, che se i finanzieri ovviamente si sono allertati perché hanno detto è Pasqua, perché no, non c'è la colomba, c'è il panettone, guarda che strano. E no, perché il panettone c'è tutto l'anno, cari finanzieri. Quindi sicuramente se quel personaggio, se foste stati informati sulle tendenze, sicuramente non avreste frugato in quel panettone. Ma la non conoscenza delle tendenze vi ha portato a scoprire 250.000 euro. Ecco, quel signore, se avesse usato la colomba invece del panettone, sicuramente ora non sarebbe al gabbio. Bene, io ho chiuso, ho fatto un viaggio bellissimo attraverso tutti questi dolci: la scarcella, il casatiello, il bracciatello, la pastiera, la colomba, la fugassa, pie, kuzupa, poi ancora pinza, titole, presnitz, e poi potrei continuare ancora. Io no, vi auguro a questo punto buon pranzo, avete sentito tutti questi dolci, ma io vi voglio augurare in musica una buona Pasqua. Buona Pasqua al Polo Nord, buona Pasqua al Polo Sud, buona Pasqua all'Occidente. Buona Pasqua pure a te. Buona Pasqua anche da Davide Paolini e buon pranzo con tanti dolci.